incunata, già so. Nella latrina sgorgante cadaveri non eccellenti però. Sorgo un domande ma niente risposte, ma poi mercoledì viene dall'etere, sì. Pronto lo stomaco, pronto a ingoiare. Pillola rossa, pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Pillola, pillola rossa. Pillola, pillola. Non sono io a non essere credibile, non sono io a dovermi giustificare. Voi rinchiudete la gente, la fate ammattire nelle fabbriche, negli ospedali, nelle caserme. Io creo sogni, voi li uccidete. Io parlo sboccato, voi nemmeno parlate la nostra lingua. Ci lasciate ai bordi, ci fate vedere donne che non potremmo avere, posti dove non potremmo entrare, cose che non potremmo comprare. Non siete diversi da noi, ladri e puttane vestiti bene. Voi ci rubate il tempo, che è l'unica cosa che abbiamo. Ci insegnate a tradirci e a non fidarci più l'uno dell'altro. Voi spacciate certe droghe nelle farmacie e ci arrestate se ne vendiamo altre. E noi ve lo lasciamo fare tutto questo, perché nella vita non c'è mai scelta tranne che in certi campi, ma mai in quelli importanti. Ma io non voglio essere un prodotto del mio ambiente. Voglio che il mio ambiente sia un mio prodotto. Ci siamo col braccio, ci siamo. Occhio, guarda la cassa, scusa, mettiamo le cuffie. Ci siamo, puntata 18. Sì, allora dagli studi occupati di ZAM trasmettiamo la puntata numero 18 di Pillola Rossa. Sì, sì, e con la grande collaborazione di A Club Unite, o sbaglio? No, ridallo, pronto. Sì, allora ci abbiamo un po' di giro microfono che abbiamo un po' scocciato, però scomparso, ma riuscissimo ad averne due sarebbe bellissimo. Niente, non c'è. Ci sei? C'è, sembra, no? Sì, guarda che forse sì, forse no. Niente, scompare a vista d'occhio. Per il momento adesso vediamo se riusciamo a risolvere il problema. Facciamo intanto una commemorazione. Sì, ci sta, commemorazione. Ma dico tu che a me non si sente. La commemorazione è per un menestrello. Qualcuno dice che è inutile da fare, che basterebbe stare attento a chi frequenti ed evitare di farsi contagiare da certe idee balorde di questi deficienti. Andrebbe bene se fossi milionario, ma vado tutti i giorni in treno ad alto passo. Il treno è pieno, ma ho un posto riservato da quando mi hanno dato la tessera del fascio. E mio cognato stamani si è sfogato e ha detto esagitato che questa è dittatura. Non ha firmato e l'hanno licenziato, ma è solo uno sfigato che ci vuol far paura. Anche da noi un tipo l'han cacciato e c'è una tesserata carina e divertente. Che sarà mai la tessera del fascio? Finirà tutto bene, non succederà niente. per non dir poi di Pippo il giornalaio, convinto che i fascisti sono tutti satanisti, che fanno l'orge e violentano i bambini e vanno nei casini facendo i futuristi. È questa eterna paura del moderno, e intanto poi le cose qui vanno a scatafascio. L'uomo che sa cos'è la civiltà sicuro prenderà la tessera del fascio. La vuoi piantare, di stare a ragionare, a farti delle pippe con la filosofia? Si perde tempo a stare a macerare con questa tiritera della democrazia. E dato che si tratta di italiani, per rispettare le regole propongo un militare. Ancora meglio che sia di un corpo scelto, magari degli alpini, magari un generale. Ma che vuol dire? Guardate nel passato, la discriminazione è fonte di sciagura. Ma cosa c'entra gli eretici e i cristiani? I tempi sono diversi, è un'altra congiuntura. Basta che dici, mi voglio tesserare, e timbri sul tagliando la data del rilascio. Di chi hai paura? È come una puntura, ma vale l'armatura, la tessera del fascio. Stringiamo i denti, passiamo gli anni venti, usciamo dalla crisi che niente ci spaventa. Ricostruiremo le strade, gli ospedali saranno fenomenali i prossimi anni 30. Andremo in giro con l'idrovolante da Tripoli di Libia a terra ad alto passo. Tutto andrà bene, andremo sulla luna, ci porterà fortuna la tessera del fascio. Tutto andrà bene, andremo sulla luna, ci porterà fortuna la tessera del fascio. Ragazzi, su Pillola Rossa, puntata 18. Davide Riondino, la tessera del fascio. E tutto per voi, la favola dell'uccellino. La conosci la storia dell'uccellino? Mio nonno me la raccontava sempre. Diventare nonni era estremamente difficile ai tempi miei. Era difficile, ragazzo, ma non impossibile. Allora, quest'uccellino non sapeva ancora volare. Durante l'inverno, in una notte fredda, ruzzola giù dal nido e finisce sul sentiero. Poverino. Comincia a gridare, piu, piu, piu, come un matto, e sta per morire di freddo. Ma fortuna per lui, ecco che arriva una vacca. Lo vede e pensa di scaldarlo. E così alza la coda. E splash! Una margherita bella e fumante, grossa così. L'uccellino al caldo è tutto contento. Tira fuori il capino e ricomincia. Pipì, pipì, pipì, pipì, più forte di prima. Ma un vecchio coyote lo sente e arriva di corsa. Mamma mia! Allunga una zampa e lo tira fuori dalla cacca. Lo pulisce ben benino. E poi? Se lo ingoia in un solo boccone. Il nonno diceva che la morale c'è, ma che bisogna trovarsela da soli. L'uccellino, il coyote, la margherita, a me queste storie di merda mi fanno scoppiare la testa. Tu credi ancora alle favole, vero? Pillola Rossa. Allora, cosa... Allora, puntata 18, dopo la pausa, finito in un referendum che fortunatamente ha preso una direzione decisamente giusta. Inaspettata. All'attacco. Inaspettata anche, diciamo, la percentuale di voto, inaspettata che ha vinto praticamente in tutte le regioni tranne nella nostra, sostanzialmente. Lombardia vince il sì, Veneto vince il sì e Trentino vince il sì. Finisco per dire questa cosa qua perché hanno riportato anche molti giornali praticamente una parentesi in due comuni calabresi dell''Ndrangheta, ha vinto col 90% il sì. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, questi pensano al sì, al no, Cioè, Chuck Norris è morto e noi siamo qui a pensare al sì, no? Tra l'altro ha una lotta come Bossi, cioè, ma dai, cioè, nessuno ha ricordato Chuck Norris, incredibile. Signori, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto, a guardare a questo spettacolo. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. 1971, Roberto Righini con Mondo Malato. Caro e vecchio prog degli anni 70. Riguardo a quello che dicevamo prima, poi io non lo so, mi immaginavo fuori da... Oh? Mi senti? Sì. Eccoti, sì. Eccoti. Fuori da... Oh, sì. Vai, sì. No. Vai. Sì. Ragazzi, è Pillola Rossa in diretta, è così, eh? Il brutto che scompaiono brutto, i microfoni. Il brutto, va, della diretta. Ecco. Perché una volta lo devi tirare il cavo, una volta lo devi schiacciare. Vabbè, io mi immaginavo il... insomma, è la persona fuori dal seggio col mazzo da 20 euro, perché penso che la tariffa, non lo so, sarà 20-50 euro. Non lo so, mi ricordo quel film, una delle prime puntate di Gomorra, la serie TV, che spiegavano perfettamente il meccanismo elettorale con la tessera buttata dalla finestra e il pagamento già effettuato con il rilascio della nuova tessera, quindi nessun margine d'errore. Qua si parlava di fotografia del voto, però cioè, secondo me c'è un metodo più collegato. Ci chiedevamo anche tutti come mai continuano ad essere rieletti in Lombardia dopo 30 anni i Formiconi, gli amici di Formiconi. Ragazzi, ma dopo 30 anni magari hanno tutti uno stipendio quelli che li votano, che sia l'architetto o la guardia giurata, il medico, il primario, il direttore d'ospedale, l'assessore, la ditta di Uber e il ballerino alla Scala può anche essere, perché... le ditte di schiavi che fanno le pulizie negli uffici, sono tutti loro, sono sempre i loro territori quelli che tentano di ribaltare la realtà. E noi vi lasciamo due parole in merito. Li avevano o non li avevano, le tessere del fascio. Ma cosa vuoi che capiscano di fascio e non fascio? Ma se erano anche disarmati. Quegli altri, le armi, ce l'avevano. E come? E questi due dovevano stabilire il contatto con i fascisti di casa. Qui finisce che ci ammazzano. E perché ci dovrebbero ammazzare? Non abbiamo fatto niente. Tu sei una spia. Se non t'ammazzano loro, t'ammazzo io. Dico io, siamo forse come i fascisti. Siamo forse assassini, come loro. Io non mi sento di essere come loro. Certo, io un fascista posso anche ammazzare. Però se mi attacca, se mi costringe a difendermi, ma io non voglio né odiare né ammazzare nessuno. La nostra idea non è quella di odiare gli uomini, ma è quella di odiare il sistema che ci costringe a odiare. Non possiamo voler cambiare il mondo e poi aspettare che nascano tanti bravi ragazzi, tutti come noi. Bisogna lavorare sugli uomini che ci sono già. Quei due là, ad esempio, che sono come la pianta selvatica, che va curata, va trapiantata, perché possa dare il frutto buono anche lei. Via. Eccoci, dica. Sì, sempre in gran lavoro con schiacciare i tasti. È uno studio. Novità in queste due settimane, perché la settimana scorsa non siamo andati in onda, nello sciopero, giusto? Bravo, sciopero. Fratelli, sorelle. Ferie non pagate, meritate. Yeah. Non è detto che non lo rifaremo, non è detto. Yeah. Potrebbe anche diventare una puntata bimensile, che ne sappiamo, yeah. Una cosa che è in lavorazioni. Sugli eventi che sono successi in queste due settimane, a parte che ci siamo lasciati con l'incedere del referendum, su invece riguardo alla guerra ci sono novità da ieri riguardo alla base di Sigonella, no? Dica, che altro è che c'è stata un po' una mistificazione, secondo me, nel senso che sembrava molto un voler far sembrare una cosa che in realtà non è. Cioè, cos'è che è successo? È successo che, lo sappiamo, da settimane partono aerei dalle basi sia di Sigonella, che è dalle parti di Catania, sia da Aviano, che è dalle parti di Pordenone. Basi che, cioè aerei che vanno verso il Golfo Persico, e su questo non c'è dubbio perché vanno a est, aerei che arrivano da ovest, quindi non c'è dubbio dove arrivano. Dica. Si parla però di logistica, no? Cioè si parla di non aerei che prendono iniziative belliche, ma sono di ricognizione, di appoggio, eccetera, eccetera. Cosa è successo ieri? Ieri dall'Inghilterra è partito questo aereo, ieri mi sembra, il 31 marzo, è partito questo aereo americano, caccia, e ha chiesto di poter atterrare a Sigonella. Punta a caso a Sigonella, doveva fermarsi un attimo a Sigonella, se era possibile. Allora, da panorama è bello, le cartoline illustrate, la diamite. Pausa sole, insomma, alla fine. E invece a sorpresa è arrivato un no da parte del ministro della difesa. Cioè, da parte, prima è stato contattato il capo lì della base, ha contattato il ministro della difesa. Il ministro della difesa non è negli accordi, e quindi no, e si sono incassati un no. Allora l'opinione pubblica insomma ha un po' riconsiderato, ha detto: vuoi vedere che ci avviciniamo all'idea della Spagna, incominciamo a dir di no? Allora, la Spagna da ieri a mezzanotte ha vietato il traffico aereo militare agli Stati Uniti su tutte le basi del territorio spagnolo. È interdetto il volo agli aerei militari americani sulla Spagna. Giusto per precisare un attimo quando si prendono decisioni e quando si fa finta di prendere decisioni. Mamma l'italiani, mamma l'italiani. Sigarette, mangia chietti per il sesso. L'italiano è sempre un povero immigrato. mantiene non è no questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria. La gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani, mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Vacanze di piacere per giovani settantenni, all'anagrafe italiani, membri asili diciottenni, pagano pesanti ragazzi intraprendenti, se questa compagnia viene presa con i denti. Italiano è stato sempre un povero emigrato, guardava avanti con la mente nel passato. Chi non lo capiva, lui non rispiegava. Chi gli andava contro, sentato pure no. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Spara la famiglia del pentito che ho contato, lui che viene stipendiato. Il 27 dallo Stato nominato, sparato e ricontare le sue anime non si può più. Risponde la famiglia del pentito che ha cantato difendendosi a colpare. Tutti i giorni più incazzato sarà guerra tra famiglie, sangue e rabbia tra le griglie, con la fama come foglie che ti tradirà. Mafia, mafia, mafia, non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica. Aria, aria, aria, la gente è troppo stanca, è ora di cambiare aria. Mafia, mafia, mafia, non mi appartiene, non è no questo marchio di fabbrica. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Mamma gli italiani, mamma gli italiani, manculigani, manculigani. Manculigani, gli italiani. Oh, microfono? Microfono, c'è un boicottaggio, c'è un boicottaggio. Prima era meglio. Aspetta, pronto, ci boicottano ragazzi. Un attimo. Sì, sì. Oh, eccolo, eccolo, arrivato, ci siamo. Arrivato. Vai Belluno, ok. Vabbè, niente, nella compagine del Mamma agli italiani abbiamo pensato ad agganciarlo a questo, come dicevamo nel fuori onda, questo crollo dell'imperialismo calcistico. E quindi per la mancata qualificazione per la terza volta consecutiva dai mondiali di calcio che ormai ragazzi parliamo un attimo di che vengono fatti in tre stati, quindi Stati Uniti, Canada, Messico. E oggi guardavo, indovinate un po' dove si giocano nel 2034, già deciso perché praticamente si sono ritirati tutti al cospetto di questa nazione che ha proposto di ospitarli. Arabia Saudita. Ok, dove impiccano le persone ogni settimana, ne impiccano, esatto, qualcuno. Esatto. Questo per far capire chi comanda il mondo del pallone e soprattutto l'anno prossimo, cioè i mondiali del 2030 dovevano essere giocati teoricamente in Uruguay, dove è nato tutto 100 anni fa. Dove è nato il calcio, giusto? Esatto, dove è nato il calcio si dovevano giocare. Invece si giocheranno in un'altra triade carina, per la maledizione, Spagna, Portogallo, Marocco. Però per, insomma, teoricamente dovevano giocarli lì. E vai, calcio dappertutto, Sky, DAZN, COZN. E poi non c'è più nessuno che gioca a calcio. Ed è così, ragazzi. La pubblicità. A casa. Welcome to Hezbollah phone line. For membership information, press 1. For negotiation update, press 2. For bonus mail information, press 3. For terrorist supplies, press 4. We have currently suspended our terrorist supply service as we are engaged in negotiations with Israel. We will resume service as soon as negotiations break down. Thank you. Great. È una cosa, me l'avevi data te l'altra settimana, si potrebbe dire, adesso magari la confeziono, sul fatto che molti tossici votano per la Meloni, che sono di destra. Questa cosa mi ha stupito, infatti bisogna elaborarla. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista.

A dopo, ciao. Ragazzi, nel frattempo i canali BRICS, cioè quelli non schiavi della coalizione USA, sì, paesi come l'India, la Cina, BRICS, il Brasile, sì, la Russia, se ne è parlato un bel po', roba con centinaia di milioni di paesi, loro sui loro canali di propaganda raccontano un andamento della guerra un po' diversa in Iran, tipo affermano che 13 basi militari americane sono state evacuate dagli americani e sono state abbandonate, una portaerei è stata distrutta, contingenti militari cinesi stanno arrivando nell'area e lo stretto di Hormuz non è chiuso in assoluto, è chiuso per gli stronzi che fanno la guerra all'Iran. E tutti, certo, gli altri, i cinesi passano, tutti gli altri, il resto del, sì, mondo passa. E è la famosa, diciamo, l'alta, è quando compri l'altro giornale capisci che non è tutto esattamente uguale. Allora, gli altri che non passano, se vogliono passare devono pagare 3 milioni a petroliera. L'ha messa così, sta settimana andava così, la quotazione del greggio era 3 milioni a petroliera. Thank you. Ragazzi, non vi abbiamo abbandonato. Sotto c'era Comos dos Trenes che si incontra nella noce. Questo è spagnolo, guarda il mic. Questo è Gianni Nocenzi, che assieme al fratello erano i fondatori del Banco del Mutuo Soccorso e sono anche i signori che hanno costruito la colonna sonora del film che vi stiamo mandando in onda a piccoli pezzi, che è Nella città perduta di Sarzana, diretto nel 1982, mi sembra. Piccoli stralci durante la pillola rossa. Esattamente, quindi questi Gianni Innocenzi, fondatori del Banco di Mutuo Soccorso, assieme al fratello e a quello che vi abbiamo abbandonato per 4 minuti, mi sembra, o 3 minuti e mezzo, quasi un'eternità, ma lascio la parola a Belluno che... Sì, facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo trasmesso, perché la pillola rossa è la pillola italiana con la GL, quindi diciamo anche cosa abbiamo trasmesso, in modo che non dovete essere per forza col telefono a dire... Col taccuino in mano. Cioè, invece ve lo diciamo a voce, così potete tranquillamente pigliare. Allora, a parte i due pezzi iniziali che abbiamo già nominato, gli apre la classe per introdurre questo grande trionfo calcistico, con Mamma gli italiani, Gaber Giorgio con Il conformista e appunto Gianni Innocenzi già presentato. Chi era? Già presente, ce l'abbiamo sotto, ma non li abbandoniamo per 4 minuti interi, lo teniamo. Guardate, è tornato da solo, non ho toccato il mixer. Gli ridiamo un attimo, ma poi ve lo togliamo, ok? Non è solo per il vostro male. com'è andata? Abbiamo trovato Bonomi poco disponibile, quasi ostile per quello che le prefetture di qui gli avevano comunicato. E cioè che Ricci e i suoi stavano facendo un semplice giro di propaganda da queste parti. E che Sarzana era una città piena di gente armata, come se ci fosse un'insurrezione. Eh sì, Bonomi non è diverso da Giolitti. Meno demagogo, più fine e per questo più pericoloso. Però Turati non sembra contrario ad un accordo con lui. Un mese fa, forse. Perché alla nostra entrata nel suo governo doveva corrispondere il disarmo e la repressione del fascismo. Ma oggi Bonomi dice che è colpa nostra se i fascisti sparazzano per il paese incendiando e uccidendo. Anche lui dice che il fascismo è una reazione al pericolo di una rivoluzione socialista. E poi pare che abbia rinunciato a colpire quelli che si sono arricchiti con la guerra e quelli che frodano il fisco, con la scusa che queste misure sacrosante aggraverebbero l'attuale crisi dell'industria. Quasi certamente noi voteremo contro il suo programma di governo. E dopo che succede? Se Bonomi, come probabile, mette in piedi un governo di centrodestra, avremo margini molto stretti. Anche perché il partito ha deciso per il patto di pacificazione con il fascio nazionale. Francesco, ma che dici? Qui la gente non può credere a una pacificazione. Qui abbiamo avuto dei morti, un mese fa, tre giorni fa, ieri. Qui c'è una città mobilitata e qui si parla di pacificazione. Ma a vantaggio di chi? Badate che qui siamo tutti d'accordo. Noi, i comunisti, i repubblicani, gli anarchici, perfino i popolari di Santo Stefano. Siamo tutti convinti che i fascisti si possono battere. La linea del partito è quella della pacificazione a tutti i costi. Non dobbiamo dare al fascismo motivo di espandere la sua organizzazione e la sua attività militare. Bisogna impedire il colpo di Stato. Senti, Francesco. Se i fascisti ci attaccheranno, io che aborro la violenza, sarò costretto a seguire la mia gente. E ti giuro che io stesso la guiderò nella difesa armata. Questa perché hai votato? Perché tanto si è votato il no, perché si era motivo, tanto sono finite per diventare elezioni politiche, ma se guardiamo in sé la cosa, abbiamo sprecato una cosa per cambiare la magistratura, però si vede che alla fine a noi ci va bene anche così, è diventata una cosa diversa, no? Io ti dico la verità, non sono andato a votare, perché vaffanculo non sapevo né votare sì né votare no, però alla fine... per non votare sì non sono andato. Pronto? C'è? Aspetta un attimo che siamo qua problematici con la tecnica in diretta a Pillola Rozza, puntata 18. Si voleva dire con buona pace invece delle sorelle e dei fratelli che sostenevano con tanta veemenza la caduta del cattivissimo governo siriano, del tiranno. Intanto a titolo personale dico che non vedo nessuna differenza tra le cattiverie del vecchio governo siriano e tutti i paesi di quell'area come l'Egitto, l'Algeria, l'Oman, il Qatar, il Kuwait, la Giordania, l'Arabia Saudita, e potrei andare avanti. Sono tutti paesi dove torturano le persone, dove fanno sparire, ammazzano il prossimo. Gran gruppo. Non vedo nessuna differenza con questa propaganda di regime che ha portato a condannare negli ultimi 20 anni quello che era il governo siriano, che poi è scomparso. E mi ricordo che c'erano tanti fratelli e sorelle che dicevano no, che cattivi, la dittatura siriana, il dittatore. E con questa piccola grande differenza che, come dicevamo, era l'unica nazione sul pianeta di professione alawita all'interno della religione islamica, cioè l'unica religione che professava sulla carta costituzionale la parità tra uomini e donne. Le donne in Siria potevano lavorare, potevano andare in Parlamento, avevano gli stessi diritti riconosciuti sulla carta. Cosa ora, che non si legge nei giornali che arrivano sulle tavole dell'Ovest, insomma. Alla tavola calda. Esatto. fatto? No, e cosa è successo? Che come si era affrettato a fare il regime della Meloni, della Giorgia, che ha riconosciuto il nuovo, metto le virgolette, come gli stronzi, governo siriano condotto da un primo ministro che era uno dei componenti della jihad islamica dell'ISIS, quella che uccideva in Siria, dell'ISIS. Uno dei quadri dirigenti dell'ISIS è ora a capo del governo fantoccio siriano, riconosciuto dalla Meloni appena sorto, un paio di mesi fa, non mi ricordo, e ieri accolto con tutti gli onori dal governo tedesco, di quel tale Merz. Cioè, hanno accolto uno dei quadri dell'ISIS. Come cambia la prospettiva. Ecco, sì, appunto, e noi in tutto ciò, ricordando ai fratelli e le sorelle che si lamentavano di quello che faceva il governo siriano contro i curdi in quel pasticcio, in quel caos, forse ora il primo ministro, non sappiamo bene, assieme ai turchi, che sono i diretti alleati militari che hanno fatto cadere... Ecco, sono gli stessi che poi stanno attaccando i curdi anche loro per farli sparire, e questo governo fantoccio, appunto, che fa la massa assieme a un'altra massa di nazioni che sono scomparse negli ultimi 30 anni. E stanno cercando di spezzettare questo governi asiatici che un po' si differenziano da questa massa di stati, tutti i servi del capitale, diciamo. C'è Cuba. Andiamo avanti con la musica. Questi sono una scoperta recente, eh. Alzate il volume perché sono i Ripudio. Criptovaluta, mi coglioni. Yeah. Benvenuto al servizio clienti di Hezbollah. Gli operatori sono occupati. La sua chiamata sarà servita entro... 420 minuti. Bel servizio clienti. Come lo troviamo, Phantom? Beh, probabilmente sarà nel suo Mew Kentucky Restaurant. Ok, ma quale? Sono tipo 200. Probabilmente alla man. È lì che si rimedia la meglio Topolach. Qual è il prefisso German? Sofra wahad wahad. Sofra wahad wahad. Arba hamse talata. Arba hamse talata. Hamse hamse sofra sofra. Hamse hamse. Hamse hamse sofra sofra. Sofra sofra. Sì. Saba saba. Saba saba. Sitte talata harba sitte. Sitte talata harba sitte. Wahad. Harba. صفر سبع كاسو ثلاثة أربعة خمسة eco pronto pronto eco sabotaggio sabotaggio sabotaggio ripeto ragazzi sabotaggio vai vai vai vai vai to. Va bene, cambio microfono. Aggiornamenti, visto che parlavamo di sport prima, parlavamo di questa grande delusione mondiale. Ci riallacciamo al calcio per notizia degli ultime ore, riguarda ancora lo stadio, che praticamente ieri perquisizioni della Guardia di Finanza a Palazzo Marino nella sede di M1 Stadio, la società di Milan e Inter che gestisce il Menazza, e negli uffici e abitazioni di dirigenti comunali, consulenti e manager delle due squadre, tutti indagati nell'ipotesi che il bando di vendita sia stato costruito su misura per Milan e Inter, con collusioni e informazioni informali che sono state praticamente elargite alle due società per fare sostanzialmente un bando fatto apposta per loro. Ricordiamo che lo stadio è stato venduto a tipo 70 milioni, se non mi ricordo male. No, era più o meno una settantina e oggi appunto ricordavo questa cosa qui, che è stato venduto giusto qualche, insomma, in questo periodo il forum di Assago a di più, cioè a una trentina di milioni in più, quindi... Quindi questo è quanto, e in tutto questo, anche nel post olimpico, si parla appunto molto di hockey e arrivano le squadre dagli Stati Uniti, arriva la proposta della squadra di Milano, quindi insomma spallata agli imprenditori italiani, arriva, e arriva anche, a quanto pare, non bastava il palazzetto di Santa Giulia, che ora adibito a concerti per Ticket One, nuovo palazzetto di 4-5 mila posti. Se non l'aveste ancora capito, la squadra di hockey di Milano, Milano dovrebbe riformarsi perché non c'è da un po', è stata comprata dagli americani. Tanto per cambiare nel contratto, no? Nell'aereo arrivi, scendi, giochi a hockey, cioè così. Allora giochiamo in acque luride e oscure e siamo a meno che zero. 1995, sì. Sono tutti ormai alla caccia del nuovo Billy the Kid, con passamontagna o marker nelle tasche in mano, make al di fuori dei governi, delle piazze, dei TG, dalle vostre propagande culturali da NTV, le testate dei giornali, dei processi in mano ai Jeep, corri da stadio, fuck the gladio, PDL, PD, per una canna, una condanna, vuota drama, chiama i RIS, fiamme gialle, strisce rosse, is the sound della police, yeah, no business. no escape in this Duralex, cyber skills, disconnect, cypher vin con il suono che quadra, stile colpe dove esplode il chakra della volpe a nove code, che squadra, vecchie colpe nuove mode, per strada, verso i vostri 41 bis, il bisogno del disordine per ogni rima, contro chi controlla l'ordine e la disciplina, per chi non rimane immobile sta pantomima, e non si lascia confondere one shot, one kill, com'è che siamo zero per chi resta privo di cervello distintivo e manganello palliativo, pure quello punto primo di un livello intellettivo che sfacello ed ha bisogno di combatterci. I promise, raise again, the machine, con i miei sopra il beat, super size me. E per te io sono zero, anzi sono ancora meno. Blocchi di ghiaccio lurido sbarrano il tuo sentiero. L'acqua cambia stato, per te si fa più dura, ma lo stato non cambia quest'acqua lurida oscura. E per voi io sono zero, anzi sono ancora meno. Blocchi di ghiaccio lurido scuro sul tuo sentiero. L'acqua cambia stato e per voi si fa più dura, ma lo stato non cambia quest'acqua lurida oscura. Faccio tracce sugli sbirri che mi critica dal volo, ma non dite cose giuste, ce li ho sulle mie tracce perché io facevo il pusher quasi come un lavoro e tu ce li hai sulle tue tracce. Se fai featuring con loro, lo sbirro è un nome d'errare, rimane umane, la divisa è l'occasione che si sa, fa l'uomo ladro in questo stato, non corrisponde ben arreato, nessuno ne risponde, non è un caso isolato, è un caso insabbiato di cui il media non ti parla e lo fa il pirla che non copre le case di sto isolato, leggiti gli articoli di Wikileaks sopra i politici per cui litighi e perquisite lì coltre che essere ricchi alla Ricerich dalle narici, sti tipi qui fanno i tipici con una troia da brividi a Rimini o con gli amici, giù in Sicilia o col prete che stupre piccoli a piccoli, gli incendi in modo che a picco cadano dentro agli inferi, parlate dure i timpani, merda dovete estinguervi, serve puntare gli indici ai vizi di singoli tizi che sono indizi e sintomi dello schifo che vive chi vota e vi sbarra i simboli, barra dopo barra fa street symphony, in culo dischi e singoli, masterizzami per poi spingerli, sto cd lo stampo per le teste vecchio stampo, vanno ad acquistarlo per interessi collezionistici. Per te io sono zero, anzi sono ancora meno, blocchi di ghiaccio lurido sbarrano il tuo sentiero, l'acqua cambia stato, per te si fa più dura, ma lo stato non cambia quest'acqua lurida oscura. E per voi io sono zero, anzi sono ancora meno, blocchi di ghiaccio lurido scuro sul tuo sentiero, l'acqua cambia stato e per voi si fa più dura, ma lo stato non cambia quest'acqua lurida oscura. I got you stuck off the realness, realness, every rhyme I write, rap is something you do. Hip hop is something you live. It ain't hard to tell. Pronto, li ho persi, li ho ritrovati, sì. li ho persi quelle merde mercenarie fasciste, guerrafondai dei craini, dei cucraini, però mi togli questo disturbo dalla cassa, scusa, no, c'avevo una... Allora, il governo ucraino alla fine sta facendo vedere a cosa è servita la sovvenzione dei 90 milioni di dollari che gli sono piovuti addosso negli ultimi 4 anni. Praticamente è diventato un po' come Israele, se riconosciamo in Israele il primo paese killer sul pianeta, cioè quel posto dove tu ti rivolgi se vuoi uccidere o non essere ucciso, di qualsiasi estrazione tu sia, basta che abbia i denari per pagare. Ecco, sembra che questi 4 anni siano serviti agli americani e a tutti i guerrafondai occidentali per allestire l'Ucraina come il nuovo paese killer nell'emisfero nord, quello pronto a uccidere, a sparare, sì, guerrafondai di merda. E difatti l'ultima notizia è che l'Ucraina incomincerà a rifornire di droni da combattimento tutti i paesi arabi contro l'Iran. Voci. Insomma, volevano una fabbrica sul fronte est. Sì, sono gli stessi ucraini che hanno tirato giù una petroliera nel Mediterraneo che sta vagando ancora, sono tutte prove, si allenano, no, poverini? Allenamento. Sono quelli che hanno distrutto l'oleodotto che va in Ungheria, così Orban verrà rivotato di nuovo perché è sovranista, nazionalista, attaccato. E gli stessi che avevano distrutto il gasdotto che veniva dalla Russia, dopo che gli inglesi sono usciti dalla UE perché già sapevano. Ci spiace non avere contraddittorio, lo diciamo tutte le volte che procureremo un numero di telefono, noi lavoriamo anche per questo, ma veramente... Intanto ci hanno scritto che volevano un pezzo sul gruppo Telegram di Pillola Rossa. Sì, adesso non lo mandiamo perché qui abbiamo un milione di cavi e quindi non riusciamo a mandarlo, però magari la prossima volta lo mandiamo. Grazie per la segnalazione. Tu nonna, l'abbiamo già mandati tu nonna, però possiamo rimandarli, possiamo rimandarli, no, non questo pezzo però E lì qui è storia di Aurora Borealo, è il genio, ma vi lasciamo un'altra epoca. Quindi sarò costretto a punire i colpevoli se i corpi salteranno fuori da qualche parte. Dunque, riepiloghiamo. Le forze dell'ordine al comando del capitano Jürgens hanno ucciso 5 fascisti sul piazzale della stazione. Una decina sono stati uccisi subito dopo dagli arditi del popolo e dai contadini. Esatto? Per il fascio nazionale, le forze dell'ordine e i sovversivi di Sarzana sono complici in questo misfatto. Questa è una situazione politica molto interessante. La città era in armi pronta a difendersi. I fascisti hanno tentato di aggredirla. Le forze dell'ordine hanno sparato per impedire lo scontro tra la popolazione e i fascisti. No? Bene. Per me la colpa è dei fascisti. Chiaro? Chiarissimo, ispettore. I fascisti sono nemici dello Stato, io sono tutore della legge dello Stato, quindi i fascisti sono i miei nemici. E sono anche nemici vostri. Ma io sono qui per riportare l'ordine. E voi avete l'obbligo di aiutarmi. Io chiudo un occhio su Maiani e Pisagno. Ma in cambio non voglio più vedere gente armata in giro. Voglio che la gente sbandata torni alle proprie occupazioni, alle proprie case. Voglio che partecipiate alla riunione di pacificazione che cercherò di organizzare. E voglio anche che un certo quantitativo di armi, non tutte, venga consegnato ai carabinieri. Altrimenti non riuscirò mai a disarmare i fascisti. Attacca, attacca, cane patacca. Sì, allora, è una vergogna, una vergogna. Sì, allora, Benito Urgu. Questa è una chicca per staccare da queste notizie, perché comunque il traffico c'è un po' ovunque. Oh pastore, c'è da spostare una pecora. C'è da spostare una pecora. Ha saltato il recinto. Sentendomi siete. Sentendomi siete. Perché non venite a aiutarmi? Aiù, c'è da spostare una pecora. Una pecora nera, scalza. Una pecora nera. Quella pecora la devi è mia! Cassa dritta, pillola rossa. Mentre siamo in collegamento anche con la NASA per seguire il countdown di questa missione di Artemis 2 per il prossimo volo della Luna dopo il 1972, dopo Apollo 17, cos'era? Vi diciamo gli eventi e vi diciamo anche a proposito di questa cosa che tutti parlano della missione statunitense, ma in realtà la Cina c'ha la missione Chang, la cosiddetta dea della luna in Cina, che sta portando a casa dei materiali 2 chili alla volta dal lato oscuro della luna. La vendetta di Chang arriva dall'Oriente. La vendetta di Chang. A proposito di eventi e di cose da fare in giro, diciamo subito che tra pochissimo Ulisse contro tutti, che insomma ci ha confessato che Benito Urgu sarà nelle sue prossime programmazioni con una chicca, insomma non anticipiamo. Quando si dice la sincronicità, esatto. E invece stasera lui affronta la pop, sì, è il techno pop anziano. Adesso ho guardato la locandina, qualcosa di scioccante. Quindi, invece, cosa c'è in giro? E da qui estrapoliamo il prossimo pezzo. Un po' di cose che sono qua nei dintorni. C'è il benefit, vabbè, con i Narcan all'ex dogana, che praticamente sono il dazio che ci sono in Porta Volta, dove c'era il circolo una volta, è stato occupato, adesso ci sono dei concerti con Narcan, Apoptosi, questo è il 6 aprile, quindi Pasquetta dovrebbe essere, no? E ci sono i Nabat, quello che resta dei Nabat, quello che resta, solo uno vivo, uno al Bloom. E ci sono invece quelli che trasmettiamo adesso, che suonano con Crano, che è quello che ha fatto la colonna sonora alle Città di pianura, che è quello che ha fatto Incetta di quel film che descrive questo Est Italia, quindi la zona della pianura. Il film è Città di pianura, quello con protagonista il cantante del Teatro degli Orrori Capovilla, storia fantastico. Ha fatto Incetta di Nomination per i Davide Donatello, colonna sonora sua di Crano, che suona nei prossimi giorni. E A supporto ci sono i Bengala, grandissimo gruppo, già suona in zona, questo è un loro pezzo, Lucrezia. Ma da, no, no, dici? Sì, sì, beh, veramente, veramente io penso di sì. Comunque, sì, adesso mi devo vedere le ispirazioni, perché questa settimana appunto c'è stato sto cazzo di referendum, e di interessante, beh, ci sarebbe, beh, la guerra è brutta, la guerra fa schifo, da ridere, c'è poco da ridere. Allora, pronto, pronto. Sì, a proposito di crisi creative, abbiamo Valentina Blu e Nutrio Mannaro. Sì, la rubrica nella nostra pillola poetica. Ciao a tutti, saluto gli ascoltatori di Radio ZAM. Lasciatevi trasportare da questa nuova onda poetica per ascoltare i miei scritti del giorno. Per oggi ho preparato due tratti poetici in cui ripercorrere l'inizio della primavera, nel suo erotismo, sino ad ascoltare il canto di Saffo. Sì, perché l'inverno rimane dentro di noi finché noi non riusciamo a salutarlo, invece di cacciarlo via. Benvenuti, buon ascolto. Valentina Cavera. Le tue mani. Mi incuriosiscono le tue mani, al contatto invisibile di carne, polpa di vapore rosa, il pepe, corpo di fantasie ricamate, brace contamina il fluire dell'acqua. Se fosse una stella cadente, quella che riluce nella mia stanza, le chiederei di sentire il tuo respiro sulla pelle, così da asciugare il fuoco che scorre, ma non è che una luce esterna che danza sulla parete pallida e smunta, scoperta e svestita del suo peccato. L'ultimo specchio. Ti invio una mia lacrima avara, il ghiaccio della primavera, scivola come una goccia di sangue sulle primule interrate. Ti invio una mia lacrima lacerata, catturato nella rete, pesce rosso, un cuore stipato nella corrente. Un saluto a tutti da Pietro il Nutrio Mannaro e dalla sua panchina invisibile davanti alla Marcelleria Equina. Vi propongo un paio di poesie non troppo allegre, perché non sono allegro per un cazzo in questo periodo. Chiedete a Trump il perché, se vi viene voglia. Stavo lì sulla panchina, aspettando qualcuno che passasse e mi facesse accendere l'unica sigaretta. Dopo mezz'ora fui sopraffatto da un senso di impotenza che mi toglieva l'aria. Annaspavo nel crepuscolo rosa, grigio di smog. Non passava nessuno, non sarebbe mai più passato nessuno, e l'insegna della Macelleria Equina non mi avrebbe mai insegnato nulla. Questo è tutto, ragazzi, un labirinto senza uscita, fine pena, fine vita. Urla belluine e rumore di dinamite, palazzi sventrati come vecchie ossa fossili di dinosauri estinti, bambini che gridano vendetta per la loro autopsia a cielo aperto. La prossima notte di Halloween avremo scherzetto dolcetto al tritolo. That's all folks, baby, sull'orlo del baratro. Benvenuti. Benvenuti al telefono amico di Hezbollah. Per iscrizione all'organizzazione, premere 1. Per aggiornamento negoziati, premere 2. Per informazione media gratis, premere 3. Per forniture terroristiche, premere 4. Le forniture terroristiche sono momentaneamente sospese a causa dei negoziati in corso con Israele. Riprenderemo questo servizio non appena i negoziati falliranno. Grazie. Perfetto. Andiamo, solo invitiamo. Allora, pronto. Sì, ricordiamo che quei famosi ucraini il 25 aprile erano assieme ai sionisti a fare il servizio d'ordine che picchiava i manifestanti a favore della Palestina. Sì, questi ucraini sono molto amici dei sionisti. I sionisti che questa settimana hanno introdotto la pena di morte nel loro paese per tutte le persone che sono accusate di mettere in dubbio lo Stato di Israele. L'esecuzione della pena è mediante impiccagione. Rav Power. Mancano 20 secondi. Power, 20 secondi alla fine della trasmissione. Vi salutiamo, 17, vi vogliamo tanto 16, bene. 14. E forse ci rivediamo la settimana prossima. E, cos'altro dire? Avremo un telefono per l'epoca, un numero a cui ci potrete chiamare? No, non lo sappiamo questa cosa qua. Niente, ringraziamo Radio Cavedio che ha trasmesso e vi lasciamo perché sono scattate le 22. C'è Ulisse contro tutti. Ciao.